sul pellegrinaggio al Hajj. Cosa è il pellegrinaggio? Il pellegrinaggio è il quinto pilastro dell'Islam e questo sulla base dell'insegnamento del profeta, che Allah lo benedica e Allah ben gloria, il quale ha detto: l'Islam si fonda su cinque: la professione di fede che non c'è divinità tranne Allah e che Muhammad è apostolo di Allah, il rito d'adorazione, l'imposta coranica, il digiuno di Ramadan, il pellegrinaggio alla casa di Allah, che è obbligatorio per chi ne abbia la possibilità. Quante volte deve essere eseguito il pellegrinaggio? Almeno una volta nella vita. Chi è tenuto al pellegrinaggio? Tutti i musulmani, uomini e donne, dall'età della pubertà, quando ne abbiano le possibilità fisiche per sostenere i disagi del viaggio, ed economiche, cioè dispongano di denaro sufficiente per le spese del viaggio, dalla permanenza alla Mecca, e per provvedere alle esigenze di coloro che dipendono da lui durante il periodo della sua assenza. C'è un periodo particolare dell'anno lunare in cui si effettua il pellegrinaggio? Sì, i mesi in cui si può andare in pellegrinaggio sono gli ultimi tre mesi dell'anno lunare, cioè i mesi dopo Ramadan. C'è la possibilità di andare alla Mecca per motivi devozionali durante gli altri mesi dell'anno? Sì, la visita devozionale durante tutto l'anno si chiama Umra e nei mesi del pellegrinaggio può essere fatta in combinazione con esso. Quanti tipi di pellegrinaggio ci sono? I tipi di pellegrinaggio sono tre. Il primo e il migliore è il pellegrinaggio detto tamattua. Esso consiste nel fare la Umra nei mesi del pellegrinaggio, uscendo dallo stato di consacrazione dopo aver eseguito i riti. Mettersi in stato di consacrazione nuovamente il giorno 8 di Zulhijja ed eseguire i riti del pellegrinaggio. Il secondo è detto Qiran. Esso consiste nel fare congiuntamente Umra e pellegrinaggio senza uscire dallo stato di consacrazione fino al giorno del sacrificio. Il terzo è detto Ifrad. Esso consiste nell'eseguire il pellegrinaggio senza Umra. Quali sono i riti del pellegrinaggio? I riti fondamentali del pellegrinaggio sono l'intenzione di eseguire il pellegrinaggio, la consacrazione con la vestizione dell'abito del pellegrino, la circumambulazione della Kaaba, la corsa tra Safa e Marwa, la sosta nella piana di Arafat, la lapidazione di Satana, il sacrificio. Quali sono i riti della Umra? I riti della Umra sono l'intenzione di eseguire la Umra, la consacrazione, la circumambulazione, la corsa tra Safa e Marwa. Cosa è la talbia? La talbia è la recitazione fondamentale del pellegrinaggio, che consiste nella giaculatoria che inizia con la frase Labbaika Allahumma Labbaik, che significa eccomi o Allah in obbedienza al tuo ordine. Il pellegrino la recita dall'inizio alla fine del pellegrinaggio. In che cosa consiste la consacrazione? La consacrazione ihram consiste nell'indossare l'abito del pellegrino dopo aver espresso l'intenzione di eseguire il pellegrinaggio o la umra ed eseguito due unità di adorazione e termina dopo il sacrificio. In cosa consiste la circumambulazione? La circumambulazione tawaf consiste nel girare per sette volte intorno alla Kaaba in senso antiorario, a partire dal punto del circuito che corrisponde alla pietra nera e nell'uscire dallo stesso punto all'ultimo giro. In cosa consiste la corsa tra Safa e Marwa? La corsa tra Safa e Marwa, sa'i, consiste nell'eseguire per sette volte il percorso da Safa a Marwa, entrando da Safa e uscendo da Marwa, eseguito il settimo percorso. In cosa consiste la sosta in Arafat? La sosta in Arafat, o Kuf Arafa, consiste nel sostare in adorazione nella pianura di Arafat il nono giorno del mese di Zulhijja, da mezzogiorno al tramonto del sole. Essa è il momento essenziale del pellegrinaggio. Disse infatti il profeta: al haggiu arafa, il pellegrinaggio è arafa. Essa è una prefigurazione della dunata del giorno del giudizio. In cosa consiste la lapidazione di Satana? La lapidazione di Satana, Rajm, consiste nello scagliare 7 pietre dicendo Allahu Akbar contro il pilastro che rappresenta Satana, in commemorazione della tentazione a cui furono sottoposti il profeta Ibrahim e suo figlio Ismail nel loro cammino verso il luogo di sacrificio ordinato da Allah ad Abramo, sacrificio in cui la vittima sacrificale avrebbe dovuto essere Ismail, su lui la pace. In cosa consiste il sacrificio? Il sacrificio Nahr consiste nella uccisione di uno degli animali per i quali viene pagata la zakah, imposta coranica, cioè cammello, bovino, pecora, capra. In commemorazione dell'ordine di Allah l'Altissimo di sostituire a Ismaele un montone dopo che tanto Abramo quanto Ismaele avevano dato prova della loro obbedienza incondizionata accettando il padre di sacrificare il figlio unigenito e il figlio di essere sacrificato. Con il sacrificio termina lo stato di consacrazione. Il giorno del sacrificio, 10 di Zulhijja, è il giorno della seconda festa solenne comandata dall'Islam, detta festa del sacrificio, che commemora l'obbedienza del profeta Ibrahim e del figlio di lui Ismail su ambedue la pace. Cos'è la ziyara? La ziyara è la visita alla tomba del profeta, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, a Medina, dove c'è la moschea del profeta, che è il secondo dei 3 luoghi santi dell'Islam, essendo il primo la moschea sacra della Mecca, dove c'è la nobile Kaaba, al Masjid al-Haram, e il terzo la moschea al-Aqsa di Gerusalemme, al Masjid al-Aqsa, meta del viaggio notturno del profeta e da cui il profeta iniziò la sua assunzione alla presenza di Allah all'Isra o al Mi'raj. La visita alla tomba del profeta fa parte del pellegrinaggio? No, la visita è un atto di devozione nei confronti del profeta, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, e l'esecuzione del rito d'adorazione nella moschea del profeta, che Allah lo benedica e l'abbia in gloria, ha il valore di 1000 preghiere fatte altrove, ad eccezione di quella fatta nella sacra moschea della Mecca, che vale 100.000 volte quella fatta altrove. Può essere eseguita sempre, ma di solito viene fatta o prima o dopo il pellegrinaggio o la Umra. È consuetudine che la visita venga fatta in occasione del pellegrinaggio, o prima di eseguirlo o dopo averlo eseguito.